Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La notte del 7 febbraio 2011 arrivarono tre messaggi sul profilo Facebook di mio marito, a cui, dopo le prime reazioni di incredulità, rispondemmo dicendo che sì, eravamo proprio noi. Mi chiamo Elena, vivo a Comazzo, ho 47 anni, una bella famiglia e una casa sul fiume. Uno dei filoni più frequentati da chi scrive le storie a Voi Siete Qui e ce le manda a voi siete qui @radio24.it, non perché non li chiediamo, perché come sapete non chiediamo storie dedicate a parte alcuni casi particolari, però vi dicevo, uno dei filoni che si autocrea, si autoseleziona e quindi arriva di sua spontanea volontà, sono le storie legate alle adozioni, perché sono storie spesso lunghe, sono spesso faticose, sono storie in cui le coppie decidono, attraverso un percorso lungo e complicato in Italia, di portare a casa un bambino che non hanno procreato, ma che di fatto poi diventa loro figlio. Ce ne sono diverse, vi dicevo, che arrivano, e quella di oggi appartiene in parte a quella categoria. La storia di Elena infatti è una storia di un'adozione, ma è una storia a cui, diciamo, durante quel percorso diversi ostacoli si frappongono, ed è una storia che lei racconta in una maniera molto garbata, ma veramente ci rende increduli. Ma è anche un'altra storia questa, la storia di un ritrovamento, di una persona ritrovata o di una persona che ritrova qualcun altro. 349-238-6666 è il numero di sms per scriverci, oppure Voi Siete Qui Radio 24 al profilo Facebook, anche perché di fatto Facebook c'entra in questa storia, e questa volta a fin di bene, non che sia a fin di male, però quando si parla di Facebook è social network, la fine del mondo, ecco, in questo caso va molto bene. 349-238-6666. Mauro scrive a proposito di persone ritrovate: ho ritrovato una vecchia fidanzata abbandonata in giovane età per caso in un supermercato al mare quest'estate, e mi spiace dirvelo, ma lei era felice e io anche, quindi niente storia che riparte. Infatti già quando eravamo partiti col messaggio speravamo in un grande riabbraccio tra due persone lontane. Invece Sandro: mi ha ritrovato lui il mio cane che avevo perso durante una gita in montagna, è tornato a casa il giorno dopo da solo, dopo che avevo già allertato carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. 349-238-6666, qualcuno che viene ritrovato, ma soprattutto qualcuno che ritrova qualcun altro. Ho 47 anni, lavoro in una multinazionale. Ho un marito e tre figli, due ufficiali ed uno in pectore. Tutti e tre arrivano dal lontano Nepal, ma l'ultimo è arrivato è il maggiore di tutti, Dinesh. Mi spiego. 16 anni fa, nel 1998, mio marito ed io, dopo profonde sofferenze e lunghe attese, come è possibile immaginare, arrivammo alla meta della partenza per un'adozione internazionale. Arrivammo in Nepal il 24 di dicembre ed era il Natale più fantastico che avremmo mai potuto immaginare. Scalo nella freddissima Vienna e poi arrivo a Kathmandu, dove anche a dicembre raramente ci si avvicina allo zero. Proprio la mattina del 25 era previsto il primo incontro, ma mio marito doveva firmare i documenti al ministero nepalese e così io andai da sola in orfanotrofio. Un palazzo enorme, decadente, con una facciata che ricordava lontanamente il colonnato della Casa Bianca. Mura grandi e umide e interni profondamente bui. Al centro, un cortile assolato, dove un uomo mi accompagnò in gran fretta. Mi ritrovai attorniata da una quantità incredibile di bambini vocianti e sorridenti che giocavano nel loro momento di ricreazione. E poi fui accompagnata davanti ad un bambino che il braccio dell'uomo indicò scandendo il nome Zitaram. In effetti a me sembrava di ricordare, nella comunicazione dell'associazione per l'adozione, l'abbinamento ad un bambino di nome Jitaram. E poi immaginavo fosse più piccolo, ma naturalmente pensai di essermi sbagliata. Lo guardai come un bambino guarda il suo primo regalo, contemplando e cercando di imparare velocemente il suo aspetto, il suo sguardo, quasi a recuperare il tempo perduto. Un faccino tondo, scuro, di carnagione, chiaramente perché là sono scuri, e due occhi brillantissimi che ridevano da soli. Il bimbo sorrideva, era felice e tutto era meraviglioso. Era così forte il turbinio di emozioni in me che non capii poi bene che cosa successe dopo pochi minuti. Lo stesso uomo che mi aveva accompagnata lì venne a riprendermi. Tirandomi per un braccio mi portò davanti ad un altro bimbo, decisamente più piccolo, che stava sdraiato con altri piccoli su una coperta per prendere il sole. E l'uomo, così, candidamente annunciò: "Mistake! This is Gitaram!" Guardai il primo bambino, guardai il secondo. Capii che si erano davvero sbagliati. Il primo bambino non era quello a noi destinato. O meglio, sembrava così perché quel bimbo era Dinesh. Nelle 2 settimane di permanenza a Kathmandu venimmo a sapere che i due erano fratelli. Uno, Gitaram, a noi destinato, di 2 anni. L'altro, Dinesh, purtroppo non adottabile, di 5 anni. Dovemmo prendere il primo e lasciare in orfanotrofio il secondo, con una scena d'addio impossibile da dimenticare. Settimane dopo tornavamo in Italia. Dopo averle tentate tutte là in Nepal, in patria scrivemmo al Tribunale dei Minori e alla Farnesina per riuscire ad adottare anche Dinesh, ma purtroppo l'esito finale fu negativo, sempre per via del fatto che dal Nepal non concedevano questa autorizzazione. Seppimo poi che in effetti i fratelli maggiori, superstiti della famiglia, avevano dichiarato adottabile solo il più piccolo dei bambini. Non furono più possibili contatti con Dinesh e gli anni passarono. Intanto Gitaram cresceva ottimamente e dopo un altro incredibile, tortuoso percorso per ottenere una seconda idoneità, tornammo in Nepal, 5 anni dopo il primo viaggio, per adottare una piccola creatura di 18 mesi che si chiama Anita. In quel secondo viaggio cercammo di avere informazioni su Dinesh. Noi eravamo destinati quella volta ad un altro orfanotrofio, per cui ricevemmo solo informazioni indirette. Comunque ci dissero che Dinesh era stato adottato da una famiglia spagnola. Eravamo felici e restammo rassicurati per anni. Purtroppo però non era vero. Viveva di difficoltà e privazioni in un istituto, ma si guadagnò un sostegno a distanza e poi l'ingresso in una casa famiglia per proseguire gli studi al college privato, grazie ai suoi buoni risultati scolastici. Aveva anche tentato di spedire 2 lettere a noi, ma poiché l'orfanotrofio si rifiutava di dargli il nostro cognome e lui aveva solo il nostro indirizzo, per di più errato poiché ci eravamo trasferiti, le lettere ritornarono al mittente, così come erano partite. Abbiamo provato una grande rabbia e poi un gran rammarico per tutto quello che avrebbe potuto essere, invece non è stato, per questa nostra tranquillità in cui eravamo stati messi e che poi invece non corrispondeva a una situazione invece tranquilla per lui, per cui un po' di rammarico. La notte del 7 febbraio 2011 arrivarono 3 messaggi sul profilo Facebook di mio marito, a cui dopo le prime reazioni di incredulità rispondemmo dicendo che sì, eravamo proprio noi. Lo avevamo ritrovato. Anzi, lui ci aveva ritrovato. Dinesh. Dopo poche settimane da quella notte eravamo in Nepal per vedere dove vivesse, conoscere le persone dell'associazione americana che lo aiutava e soprattutto riabbracciarlo. Nell'ottobre di quell'anno riuscimmo a farlo venire in Italia per turismo per 2 settimane. Gli amici e i parenti e il nostro piccolo paesello nell'Interland milanese lo accolsero alla grande. La sua era una storia felice per tutti, di quelle che ti mettono un po' in pace con il mondo. Infine, dopo alcuni mesi, nel febbraio del 2011, Dinesh si trasferì definitivamente in Italia. aveva espresso il desiderio di venire a stare con noi e di fare parte della nostra famiglia. Noi avevamo trovato nei meandri dei 1000 articoli della legge sull'immigrazione un comma che dichiarava inespellibile il parente stretto di un cittadino italiano, in questo caso suo fratello, Gitaram. Una volta arrivato in Italia, la fila all'ufficio immigrazioni della questura ci portò di fronte a persone che ci guardavano un po' stranite all'inizio, ma che poi si scioglievano di fronte alla tenerezza di quello che era avvenuto. Una settimana dopo il suo arrivo, entrava a scuola, in terza superiore, definendosi, ridendo, un alieno, in quanto non conosceva una parola di italiano. Per fortuna sapeva molto bene l'inglese, come noi, e questo fu un po' di aiuto all'inizio. In 2 anni, studiando al massimo materie e lingua italiana, è riuscito ad essere promosso 2 volte e a giugno ha passato l'esame di maturità al liceo scientifico tecnologico. Sono ovviamente insieme nella foto Elena e Dinesh davanti ad una cascata che non capisco se essere in Italia o in Nepal, nel paese di Dinesh. Sono ovviamente sorridenti, c'è un bellissimo sole e guardano entrambi dritto nell'obiettivo. Pronto Elena, buongiorno. Ciao, buongiorno. Innanzitutto dimmi se ho detto bene o male il nome, non il tuo Elena, che so come si dice, ma il nome di Dinesh. Sarebbe Dinesh, però perfetto. Insomma, quindi molti lo chiamano Dinesh, in effetti non è facile capire dove vada l'accento. In realtà mi hai risposto, l'ho detto malissimo. Senti Elena, innanzitutto grazie per questa storia che è una storia, che è abbastanza incredibile, nel senso che cioè, è una storia come spesso ci capita di raccontare, una storia di adozione che racconta tutte le difficoltà legate a questa pratica. Ne abbiamo raccontate almeno 4-5 in queste 4 stagioni e tu la racconti, però al di là di quello devo dire che il centro di questa storia è un altro, no? È questa ricerca, in queste bugie che prima vi vengono dette e poi questa ricerca che non va a buon termine finché non arriva la sua. Mi dite cosa avete provato quella sera quando su un profilo Facebook vi è arrivato un messaggio di Dinesh? Ma guarda, devo dirti che mio marito era abbastanza, molto sorpreso naturalmente, ma ansioso di capire se fosse veramente lui, eccetera. Io ho dato quasi per scontato che fosse lui, ma ho avuto quasi, anzi all'inizio ammetto di aver avuto una sensazione di paura, perché non capivo innanzitutto come questa cosa fosse possibile. Poi in una situazione abbastanza già consolidata, avviata di famiglia, insomma il suo fratello minore aveva 16 anni, ho temuto, insomma me ne vergogno un po', però che andasse a sconvolgere il tutto. Certo. Ci è voluto 1 o 2 per raccapezzarmi, poi era piena notte, insomma io già dormivo e quindi è stato tutto un po' sembrava quasi un... Cioè tuo marito ti ha svegliato? Reale. Tuo marito ti ha svegliato dicendo, sì, ho trovato un messaggio? Sì, sì, dicendo ci ha scritto Dinesh e io non capivo che cosa stesse succedendo. E dopo quanto avete preso l'aereo per andare da lui? Ma guarda, lui ci ha contattato in febbraio, mio marito è andato in occasione di un viaggio che faceva all'estero per motivi di lavoro ad aprile e io sono andata a giugno, appena terminate le scuole e i ragazzi, gli altri sistemati, sono volata l'anch'io. Invece il momento in cui, insomma il tuo racconto lo dice bene, quando questo tizio dell'orfanotrofio arriva e ti dice ah no, ho fatto un errore, scusami, non è lui, è un altro, cosa succede lì? Esattamente. Sì, guardi, in realtà sei in una situazione in quei momenti in cui sei veramente in balia degli altri, non hai assolutamente il controllo su nulla di quello che sta succedendo intorno a te, per cui sei attenta, vigile, ma nello stesso tempo pronta a qualsiasi cosa, per cui in realtà cercavo, poi sai, sono attimi di inquadrare quello che stava succedendo, che poi si è rivelato abbastanza chiaro, insomma, hanno detto è stato uno sbaglio, il bambino è questo. E insomma, io vedevo questi occhi del bambino più grande che continuavano a guardarmi, mentre il piccolo era troppo piccolo per capire, sì, capire sì, chi chiaro, io fossi, chiaro, per chiaro. Cui guarda, mi viene un po' il magone. Lo immagino. Con distanza di qualche anno. Però la buona notizia è che da 2 anni Dinesh è arrivato in Italia, l'hai raccontato, ha fatto la maturità a giugno, e noi un po' come diciamo una qualunque Raffaella Carrà abbiamo pensato che insomma fosse brutto sentire te e non sentire lui, e quindi abbiamo chiamato al telefono e quindi Dinesh è con noi. Pronto Dinesh? Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Dica. Ah sì, sto bene, lei? Io sto benone, grazie Dinesh. Guarda, abbiamo appena raccontato un pezzo della tua storia, grazie ad Elena, e quindi noi conosciamo una parte piccola della tua vita. Mi piacerebbe chiederti tutto il resto, ma immagino sia molto complicato. Mi racconti solo quando vedi Elena per la prima volta e poi da quando arrivi in Italia, che cosa succede? Tu vai via dall'orfanotrofio e finisci in un'associazione, giusto? Sì, sì. Innanzitutto questa associazione si chiama Himalayan Children's Society, è una società senza fine di lucro. Okay. Infatti sono stato uno dei fortunati ad essere inserito in questa società, perché praticamente loro mi hanno dato la nuova vita, perché all'inizio mi hanno messo in una scuola privata, sì, attraverso la quale ho fatto la lingua inglese. Ok, quindi lì hai imparato l'inglese e poi sì, hai continuato la tua educazione. Dinesh, scusami, purtroppo non posso stare troppo al telefono con te, mi dici quanto hai passato la maturità a giugno? 63 punteggio. E cosa fai adesso? Cosa ti iscrivi in università? Ma ho scelto due, uno per la biotecnologia e l'altro per scienze per le alimentazioni scienze animali. Degli animali, fantastico. Sì. E dov'è che vivi adesso, Dinesh? Adesso vivo con la famiglia di mio fratello, Elena e Stefano. E in che paese esattamente? Vivo a località Maiana, Comaccio. Regione Lodi, vicino a Lodi, certo, in provincia di Lodi. Dinesh, io ti ringrazio tanto, ringrazio anche Elena che immagino sia ancora al telefono. In bocca al lupo per tutto, Elena, grazie, a presto. Grazie mille a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao Dinesh. Ciao. E alla fine, dalla storia di Elena, ho capito un po' di cose. La prima è che Dinesh o Dinesh è un nome bellissimo. La seconda è che anche Gitaram però non è niente male. La terza è che Facebook non serve solo per cercare di fare sesso con degli sconosciuti. La quarta è che sbagliare il bambino da far adottare non è proprio una cosa simpatica. E la quinta però è che in fondo anche sbagliare il bambino da far adottare può anche, in alcuni casi, finire bene. Io ringrazio in chiusura di questa puntata tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, però soprattutto ricordo, visto che prima probabilmente non si è capito benissimo mentre Dinesh parlava perché la linea era un po' disturbata e non abbiamo percepito il nome dell'associazione americana, lo ripeto, che si chiama Himalayan Children's Charities, c'è ovviamente su Google, quindi trovate se vi interessa qualcosa di più. Grazie ancora, dicevo, a Margherita Ina, Tiziano Bonini e Paulino Corleoni, grazie ovviamente soprattutto a Dinesh, a Elena e a suo marito, perché la storia di oggi era la loro e anche loro sono un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Danilo, sono di Borgo San Dalmazzo, Cuneo. La storia di domani è la mia e parlo di un capodanno di 20 anni fa. Questa è la mia storia e io sono qui.